Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici. Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo, destinati a qualche cosa in più che a una donna ed un impiego in banca. Inevitabile l'introduzione di Gino Paoli, perché questa sera parliamo di bar, luogo di indiscusso a socialità, e si può perfino pensare appunto di fare la rivoluzione da un bar, come ci insegna Gino Paoli, ma non è molto cambiato dai tempi che ci descrive in questa canzone il cantautore, almeno a sentire Giampaolo Nuvolati, che è un sociologo dell'Università degli Studi di Bicocca a Milano e che ha scritto il libro Un caffè tra amici, un whisky con lo sconosciuto, la funzione dei bar nella metropoli contemporanea, pubblicato da Moretti Vitali, 198 pagine, 16 euro. Nei bar, ci dice l'autore, ancora oggi va in scena la commedia umana, proprio nel senso di Balzac. In questo senso i bar svolgono un ruolo che trascende la loro funzione specifica, quella di somministrare viveri e bevande, per diventare invece, per assumere un carattere di un interesse generale, tale da dover interessare tutti i cittadini. Scrive infatti l'autore, alcuni caffè risponderanno esclusivamente a un'ottica di semplice consumo, molti altri invece lasceranno aperta la porta anche alle dimensioni relazionali spontanee generata in loco, e quindi conclude: i bar sono causa ma anche conseguenza dei fenomeni sociali che si concretizzano nella città. E allora esploriamo questi luoghi e quello che essi rappresentano con l'autore. Buonasera Giampaolo Nuvolati. Buonasera Giampaolo Nuvolati, come mai ha scelto questo tema del bar? Il bar è uno spaccato significativo per capire la nostra società? Sì. Il bar rientra in quelli che vengono chiamati luoghi terzi, luoghi interstiziali, che stanno a metà tra il mondo del lavoro e il mondo privato della famiglia. Quindi sono luogo di congiunzione tra questi altri mondi, ma hanno anche una loro autonomia, una loro indipendenza, dove si generano dei processi, dei comportamenti, atteggiamenti molto particolari e importanti però. Lei nelle prime pagine del suo libro fa un'osservazione abbastanza sorprendente, cioè che rischia di esserci più socialità nelle grandi città che non nei villaggi rurali. Come si spiega questo fenomeno, di cui immagino i bar sono un'espressione importante? Sì. Beh, non è proprio così, nel senso che nelle province i bar hanno una funzione che io chiamo di tipo parrocchiale, cioè rinforzano le reti che sono già esistenti, il capitale sociale che è già esistente. Mentre invece nella grande città il bar è luogo di passaggio, cioè il luogo dove io potenzialmente posso incontrare lo sconosciuto, da qui tra l'altro il titolo del libro. Il caffè tra amici è quello che si beve nel bar sport della provincia, dove ci si conosce tutti. Invece il whisky con lo sconosciuto è quello che io prendo in un luogo più cosmopolita, dove appunto entro in contatto con chi non conosco, e la città, la metropoli, è il luogo esattamente dove io entro in contatto con lo sconosciuto. E a proposito della provincia, lei nota che al sud questa funzione del bar è meno diffusa. Sì, per certi versi ciò è dovuto al fatto che anche climaticamente, parlando del clima, insomma, noi sappiamo che c'è una maggiore possibilità di trascorrere il proprio tempo libero anche all'aperto, mentre invece più noi andiamo a nord e più c'è una tradizione di luoghi dove ritrovarsi che sono al chiuso, le birrerie tedesche piuttosto che i pub inglesi, ecco. C'è un uso, come dire, più distribuito, più spalmato nelle città del sud, si può stare all'aperto, ecco, questa è una spiegazione ovviamente. La socializzazione di cui i bar possono essere un veicolo può assumere forme particolari. Lei per esempio nel suo libro cita l'esempio delle social streets. Sì. E le social street sono luoghi molto interessanti, no? Sono vie delle nostre città dove le persone entrano in contatto prima sui social network e poi decidono di condividere delle pratiche di vita comune e di realizzare alcune iniziative insieme. E ovviamente nelle social street tutti gli esercizi pubblici che insistono su queste strade sono luoghi ovviamente di socializzazione e di incontro, quindi si inizia con network e con le realtà assolutamente virtuali in queste social street, ma poi ci si incontra effettivamente nella strada per fare cose in comune, ecco. Nel suo libro lei scrive anche che i bar in qualche misura, questa è una mia interpretazione, ma insomma il senso è che rappresentano una sfida per tutti noi, per noi clienti, perché lei scrive: i caffè si offrono come palestre che affinano la capacità di ciascuno di convivere con chi non appartiene strettamente alle sue cerchie usuali, quindi bisogna essere anche dei bravi clienti. Bisogna essere dei bravi clienti, ma soprattutto in un bar ci si mette la prova, nel senso, ripeto, che intanto vengono ridotte le distanze sociali. Ovviamente esistono bar diversi, no? Ci sono alcuni bar che si rivolgono ad un'elite, altri che sono più popolari, però nel bar standard io entro e sorseggio una bevanda, bevo il mio caffè vicino a uno sconosciuto. A quel punto io ho la necessità, in un modo o nell'altro, di prendere parte, no, in questa partita, e quindi di espormi un pochino, mentre invece nella vita di tutti i giorni noi abbiamo la necessità di dire chi siamo, abbiamo la necessità di aprirci a quelle che sono delle relazioni più frequenti comune. Nel bar improvvisiamo, nel bar osiamo, nel bar giochiamo la nostra partita con lo sconosciuto, nessuno sa chi sono io e nessuno sa chi sei tu, ed è un metterci alla prova, mentre negli altri contesti più codificati, la famiglia, il luogo del lavoro, tutti ci conosciamo, no? Siamo costretti a dichiarare la nostra identità, e quella è una palestra cui noi non siamo abituati, e siamo abituati sempre meno perché amiamo i luoghi protetti, mentre invece il bar è dove entriamo in contatto, ripeto, con chi non conosciamo. E il bar è una palestra anche per reagire alla virtualità, e anche, a proposito di palestra, per, lei scrive, per metterci in mostra, per esibirci. Ovviamente è un posto dove noi ci mettiamo in mostra, dove appunto giochiamo la nostra partita, e poi c'è questa situazione di gioco, noi possiamo bleffare in un bar, possiamo millantare, dire cose che in realtà non siamo, e quindi è un contesto a parte rispetto ad altri sostanzialmente, dove invece abbiamo dei comportamenti molto più codificati, molto più regimentati, molto più rigidi. E la nostra è una società tendenzialmente che ci impone alcuni modelli, alcuni comportamenti. In questi interstizi, in questi luoghi terzi, noi possiamo comportarci diversamente, costruendo delle nuove socialità, rinforzando le precedenti, ma sono contesti diversi, ecco. Quindi il bar è anche una palestra di conflitto? Anche assolutamente, perché mi scontro, ripeto, mi metto alla prova con chi non conosco, con lo sconosciuto, di conflitto ma anche di avvicinamento, di possibilità di creare relazioni, ma nello stesso tempo anche di scontro. Poi lei conclude il libro facendo un elenco dei tipi di bar, provincia, periferia, delitto, etnico, eccetera, eccetera. Quale le piace di più di questi bar? È una risposta che capisco non è la migliore, ma devo dire che tutti i bar mi piacciono. Posso dire quello che mi piace meno, che è l'internet caffè, sono i luoghi dove noi andiamo per chattare, no? Dove beviamo una bevanda, ma dove siamo concentrati sul computer, siamo concentrati sul nostro ebook o notebook, e quindi in realtà non andiamo in un bar tanto per socializzare, anche se può avvenire, ma andiamo in un bar chiudendoci in noi stessi, e questo è un po' una contraddizione, anche se c'è un capitolo del libro in cui io parlo dei bar come i luoghi della solitudine. Però tendenzialmente più il bar apre agli incontri e meno ci consente di chiuderci in noi stessi, e più un bar secondo me è un luogo che può essere frequentato e che offre delle opportunità. Un modello di bar che non c'è nel libro è il bar Starbucks. Negli Stati Uniti si dice che questi bar siano luoghi in cui certo si va sul computer, ma anche ci si scambiano idee, nascono anche delle idee d'impresa. Lei ci crede a questo mito? No, io credo che il bar sia un luogo dove si può improvvisare una forma di socializzazione che poi ha bisogno di sviluppo, però la nostra società è tendenzialmente frequentata da delle relazioni deboli che poi devono essere in un modo o nell'altro irrobustite da un'intensità della relazione stessa. Ecco, diciamo, il bar è un luogo iniziale, è un luogo dal quale poi si può generare successivamente un tipo di rapporto più o meno consolidato, però rimane sempre una condizione molto abbastanza passeggera, è anche questo il bello, no? Cioè di un tipo di relazione che io ho, che posso costruire ma che posso interrompere, cioè non è vincolante come gli altri due mondi di cui ho parlato prima, che è quello della famiglia e quello del lavoro. E quindi, essendo così leggero, è il posto dove può cadere tutto e nello stesso tempo dove non può cadere nulla, ecco. Grazie a Giampaolo Nuvolati, autore di Un caffè tra amici, un whisky con lo sconosciuto. Buona serata. Arrivederci, grazie. Una insolita frequentazione di bar troviamo in un ritratto curioso in certi luoghi sorprendenti di Kafka, che si intitola Questo è Kafka. L'autore è Rainer Stach, è pubblicato da Delphi, 360 pagine, 28 euro, ed è tradotto da Silvia Di Marco e Roberto Cazzola. L'autore ha scritto una monumentale biografia in tre volumi di Kafka, e per preparare questa biografia egli ha indagato su una montagna di materiali, di testimonianze. Da questa massa di materiale Stach ha ricavato una serie di spigolature, di aneddoti, di testimonianze che ci danno un quadro sorprendente di Kafka. Si parte dall'esame di maturità che lo scrittore confessa di aver conseguito in parte grazie a un imbroglio, sono le sue parole, per toccare tanti altri temi, tra cui per esempio la birra e i luoghi dove la beveva con grande piacere. Lo deluse la birra a Milano, dove scrisse in occasione di una sua visita il 1 settembre del 1911: la birra odore di birra ma sa di vino. Ma non si tratta semplicemente di curiosità. I 99 reperti, come li chiama Stach, infatti ci allontanano impercettibilmente dagli stereotipi, scrive l'autore, e ci fanno intuire che sarebbe forse vantaggioso sperimentare altri approcci a Kafka, vie d'accesso sempre esistite e rese tuttavia impraticabili da immagini e associazioni mentali kafkiani, tanto da essere poi cadute nell'oblio. E con questo ci interrompiamo per un attimo e ci sentiamo fra pochi istanti. I 100 secondi di Radio 24, Il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS, e in video su radio24.it e su rds.it. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Parliamo adesso di uno dei periodi più splendenti della storia dell'umanità, il Rinascimento, periodo di arte, di cultura, di filosofia, di riscoperta dell'uomo e delle sue grandi potenzialità, ma anche un periodo che può avere dei lati oscuri, almeno di questo ci parla il libro di Alexander Lee, che si intitola Il Rinascimento Cattivo, sesso, avidità, violenza e depravazione nell'età della bellezza. È pubblicato da Bompiani, 702 pagine, 25 euro, ed è tradotto da Stefano Galli. L'autore è uno studioso britannico di quel periodo del Rinascimento, in particolare proprio di questi anni del Rinascimento, e il titolo è forse eccessivamente fosco, il sottotitolo del libro forse eccessivamente morboso, ma è lo stesso che nell'originale. Ma il libro non delude, ci vuole dare infatti un quadro analitico e documentato, e molto ben raccontato naturalmente, della vita quotidiana del Rinascimento. Un periodo che, come tutti gli altri della storia umana, dietro la facciata scintillante fatto di capolavori e di rivincita della ragione, del pensiero e della ricerca, mostrò una quotidianità molto più dominata, come sempre, dalla ricerca del potere, dell'influenza economica e delle naturali passioni umane. E per presentare questo mondo, talora contraddittorio rispetto ai capolavori che faceva nascere, lì all'inizio ci invita a seguire una giornata di Michelangelo nel 1501, quando è impegnato a scolpire uno dei suoi supremi capolavori, il David, che poté essere realizzato perché c'erano persone potenti e ricche che vollero quell'opera anche per affermare il proprio ruolo nella società fiorentina. Quindi, spiega lì, è importante studiare questa realtà. E infatti scrive: trascurare le pieghe più imbarazzanti delle vite degli artisti, i comportamenti più immorali dei potenti, i rancori e le paure irrazionali della gente comune, deruba il Rinascimento di ciò che ha di drammatico, emozionante e miracoloso. È solo dando il giusto spazio ai suoi aspetti vili e spiacevoli che è possibile mettere davvero in risalto la grandezza culturale del Rinascimento. E quindi bisogna recuperare questa dimensione per cogliere la ricchezza complessiva di quel periodo e degli artisti che le diedero lustro. Se ci limitassimo alla facciata, cioè ai capolavori che il Rinascimento espresse, per lì finiremmo col osannare Michelangelo l'artista e col ripudiare Michelangelo l'uomo. Una delle pagine più cattive del Rinascimento fu la Congiura dei Pazzi, che portò il 26 aprile del 1478 all'uccisione nella cattedrale di Firenze di Giuliano de' Medici, che era il fratello di Lorenzo il Magnifico, il quale sfuggì alle coltellate degli attentatori. Quella vicenda diventa un romanzo storico grazie a Massimo Gregori Gritsch, che ha scritto Omicidio in cattedrale, storia di una congiura, pubblicata dal Ciliegio, 260 pagine, 16 euro. È un'opera interessante perché, come nota Gino Fornaciari, che è il direttore del progetto Medici all'Università di Pisa, l'autore qui riesce a intessere in una trama narrativa appassionante una dovizia di ricerche archivistiche, addirittura paleopatologiche, così da darci un quadro autentico e approfondito delle varie personalità che furono coinvolte in quella tragica vicenda che al Rinascimento impresse una svolta decisiva. E lo stesso autore, Massimo Gregori, ha pubblicato un altro romanzo storico ambientato nel Rinascimento, o che si rifà meglio al Rinascimento, anzi una delle sue massime figure, cioè Leonardo da Vinci, anzi alla sua opera più famosa, che è la Gioconda, nonché alla copia che un allievo dello stesso Leonardo ne aveva fatto. E proprio questa copia darà vita ai nostri giorni a un complotto internazionale che ci viene raccontato nel libro Leonardo, morte per un ritratto, e pubblicato da Moicano Edizioni, 206 pagine, 12 euro. Il Rinascimento, tra i tanti eventi cui darà luogo, culminerà in due svolte che possiamo considerare veramente epocali, e di una parleremo a lungo quest'anno, in cui cade il 500° anniversario dell'inizio della Riforma protestante. Il 31 ottobre del 1517, infatti, Martin Lutero affiggeva, secondo la tradizione, le sue 95 tesi sulla porta della cattedrale di Wittenberg. Già molti titoli si stanno pubblicando su Lutero e ve ne comincio a segnalare alcuni. Il primo è quello di Heinz Schilling, Martin Lutero, ribelle in un'epoca di cambiamenti radicali, pubblicato da Claudiana, 608 pagine, 39,50 euro, ed è tradotto da Roberto Tresoldi. L'autore è uno storico tedesco che ci dà qui una completa ed esauriente biografia, accompagnata da molte immagini di Lutero, di cui vengono citati anche molti passaggi, e che viene letto appunto alla luce delle grandi trasformazioni che avvenivano in quegli anni. Una presentazione più succinta, pubblicata anch'essa da Claudiana, è quella di Steven Paulson, che si intitola Lutero per chi non ha tempo, 234 pagine, 17,50 euro, con l'illustrazione di Ron Hill e la traduzione di Teresa Franzosi. L'autore è ugualmente qualificato, Steven Paulson infatti è stato pastore ed è docente di teologia in un seminario luterano degli Stati Uniti, e qui ci dà una sintesi molto efficace e godibile del pensiero di Lutero, che tra l'altro fu abilissimo nell'utilizzare una tecnica da poco diffusa, la stampa. Egli infatti scrive: Lutero fu il primo uomo qualunque, non un re, né un messia, né un generale, né un vescovo, ad avere quella che noi oggi chiamiamo fama. In parte divenne famoso grazie al crescente affermarsi della stampa, che diffuse rapidamente ovunque i suoi scritti. Due aspetti discussi dell'opera di Lutero sono affrontati in due libri che ora vi presento. Il primo, ancora pubblicato da Claudiano, è di Thomas Kaufmann, che è un professore di teologia, che si intitola Gli ebrei di Lutero, 220 pagine, 19,50 euro, ed è tradotto da Franco Rocchi. E qui si affronta un tema difficile, quello del rapporto conflittuale con gli ebrei di Lutero, il quale è sempre stato considerato anzi un vero e proprio persecutore degli ebrei. Kaufmann cerca di storicizzare la posizione di Lutero, come spiega nella prefazione Daniele Garrone, e la posizione di Lutero non mancò di essere fra l'altro strumentalizzata dal nazismo, che cercò di rendere Lutero complice o ispiratore addirittura della Shoah, ma certo con gli ebrei Lutero non ci andò con la mano leggera. L'altro tema è il rapporto con i cattolici, che invece viene approfondito nel libro di Angela Pellicciari, storica della Chiesa, che si intitola Martin Lutero, il lato oscuro di un rivoluzionario, pubblicato da Cantagalli, 206 euro, 14,50 euro. E qua parliamo del Lutero che vuole fare la guerra ai cattolici, agli altri cristiani. Lutero fu infatti l'alibi offerto a molte nazioni diventate protestanti per giustificare la propria guerra, la propria lotta contro Roma, contro il Papa e anche contro gli ebrei, aggiunge l'autrice, la quale osserva che dove arrivava Lutero la Libertas Ecclesiae diventava un ricordo del passato, perché le varie chiese nazionali diventavano completamente soggette al potere temporale. La tesi della Pellicciari è esposta nel libro e corroborata nell'appendice con alcuni testi dello stesso Lutero e con alcune immagini coeve. Il Lutero che ci si presenta in queste pagine non va tanto per il sottile, degli ebrei parla in questi termini: cani sanguinari, assassini di tutti i cristiani, in perfetta coscienza e volontà, adesso è da 1400 anni e lo sarebbero volentieri anche nei fatti. Ovunque hanno le loro sinagoghe, lì non c'è altro che un covo di demoni. Tutte le volte che vedrai un giudeo, ricordati che con il solo sguardo infetta e uccide gli uomini. E con i cattolici non va invece tanto più dolcemente. Per esempio chiama il Papa Paolo III con i seguenti epiteti: Santa Paola III, Papa Paolino, Infernalissimo Padre, Carissimo Asinello, Apostolo del Diavolo, Anticristo Maledetto, Porco Epicureo, Escremento del Diavolo, e via continuando. Un libro per riagganciare il Rinascimento all'arte, il tema dal quale siamo partiti, è quello di uno storico, Massimo Firpo, e di uno storico dell'arte, Fabrizio Biferali, Immagini d'eresia nell'Italia del Cinquecento, pubblicato dalla Terza, 440 pagine, 38 euro. Questo è un libro molto approfondito, molto dotto, accompagnato da un ricco percorso di immagini nel quale si esamina il tema delle immagini nella religione cattolica. Tema che fu a lungo discusso fino ad autorizzare appunto l'uso delle figure, e fu proprio la riforma a riaprire questa questione, perché nella sua dura lotta con la Chiesa di Roma il protestantesimo indicò nelle immagini un simbolo della empietà papistica, e ne nacque una forte ondata iconoclasta che lo stesso Lutero peraltro condannò, pur senza manifestare mai un eccessivo calore per l'utilizzo delle immagini sacre. E di questo parla questo libro, che affronta il tema della diffusione delle immagini, in particolare delle tante opere d'arte dal sapore intimamente eretico che si diffusero in quegli anni. Anche a Firenze, per esempio, alcuni umori ereticali furono presenti, e se ne potrebbe trovare traccia negli affreschi di Pontormo a San Lorenzo, alla Basilica di San Lorenzo, che avrebbero trasmesso prima di essere irreparabilmente distrutti. Parlavo di due eventi epocali. L'altro fu rappresentato dalla scoperta dell'America, il cui protagonista troviamo nel romanzo storico di Ilaria Luzzana Caraci, che è una esperta di geografia e di storia, Gli ultimi giorni dell'ammiraglio, pubblicato da Mursia, 752 pagine, 25 euro. Anche la scoperta di Colombo, come la riforma di Lutero, diede il là all'era moderna. Eppure spesso il navigatore è ancora sottovalutato. Molti lo considerano un esploratore a sua insaputa, un temerario fortunato che non si rese nemmeno conto di quello che stava scoprendo. In realtà, dice l'autrice, che di Colombo è una profonda studiosa, Colombo fu innanzitutto genovese, contro tutti i tentativi di impossessarsene, e comunque, scrive, non fu né un ignorante, né uno sciocco, e nemmeno, come vorrebbero i suoi apologeti, un genio eccezionale. Fu un uomo semplice, con tutti i pregi e difetti che hanno anche tanti altri uomini, ma con un ideale così forte da condizionare tutta la sua vita. Un ideale che lo portò a fare quello che nessuno prima di lui aveva osato fare: attraversare l'oceano tenebroso. E qui Colombo lo troviamo verso la fine della sua vita, nel 1506, con una serie di flashback che ci fanno rivivere l'avventura e tutte le disavventure successive alla scoperta dell'America. Con la scoperta dell'America, quel continente entrava in una storia nuova, segnata all'inizio dalla dominazione straniera e dallo sterminio delle popolazioni indigene. Protagonista di quelle pagine fu anche un prete, Bartolomé de las Casas, che, giunto in Sud America a 18 anni, diventato poi cappellano dei conquistatori, si interrogherà sulla stessa legittimità di quanto gli spagnoli e gli altri conquistatori stavano compiendo in quel continente. Las Casas fu una figura discussa e centrale nel rapporto tra colonizzazione e decolonizzazione, una figura che troviamo studiata e analizzata nel libro di un filosofo del diritto, Luca Baccelli, e si intitola il libro Bartolomé de las Casas, La conquista senza fondamento, è pubblicata da Feltrinelli, 282 pagine, 25 euro. Come nota l'autore, era stato proprio Colombo a iniziare una pratica inedita, quella della conquista americana. Non fu infatti una occupazione territoriale, scrive l'autore, a opera di moderni eserciti professionali e di consolidate burocrazie amministrative. Aggiunge, fin dal primo viaggio di Colombo, pur finanziato dalla corona, si è trattato di una serie di iniziative personali, non sempre promosse e in molti casi neppure autorizzate dai sovrani e dai loro rappresentanti. Il caso più eclatante e quello di Hernán Cortés, che conquistò il Messico nonostante l'espresso divieto che gli era stato fatto. Nacque proprio da lì, da questa pratica, fin dall'inizio, un dibattito molto acceso, di cui Las Casas fu appunto un protagonista, un dibattito sulla legittimità di quanto si andava facendo. Nella sua militanza pratica e teorica, scrive Baccelli, per arrestare la distruzione dei nativi e liberarli dalla soggezione, quel prete ha cercato una via per il confronto tra differenti sistemi sociali e culturali che non si risolvesse immediatamente nella sottomissione violenta e garantisse il riconoscimento degli interlocutori e nella loro dignità. E di qua appunto nacque anche un contraddittorio giudizio sulla figura di Las Casas, che per alcuni fu considerato un eroe della decolonizzazione, per altri invece una figura riprovevole, non solo perché comprometteva la missione civilizzatrice della nazione spagnola, così la definisce Luca Baccelli, ma anche perché sostanzialmente andava a favorire un processo che oggi chiameremo magari di tipo riformistico, che comunque finiva per legittimare la conquista. E a questo punto il confettino. L'irrefrenabile voglia di scoprire nuovi mondi troviamo in una storia ambientata in un periodo a cavallo appunto tra il Medioevo e il Rinascimento. Si intitola La nave dei folli, l'autore Marco Taddei, l'illustratore è Michele Rocchetti, è pubblicato da Orecchio Cervo, 16,50 €. Qui troviamo Brandano, il quale è convinto che il mondo non sia piatto come gli stanno insegnando, ma è tondo, e organizza una spedizione scombiccherata che lo porterà però a scoprire terre ignote evocate qui con le bellissime tavole di ispirazione fiamminga. E con questo ringrazio Luca Cremonese redazione e Paolo Corleone in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica libro@radio24.it e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.